Pronto? Red, ciao, Red One. Allora, avvisa i naviganti, un pezzo di cuore. Con un po' di gente che seguiva l'evoluzione dei meli, ci siamo conosciuti al secondo incontro dell'umanità del contro il neoliberismo organizzato dalle ZLN in Spagna, credo nel 94. Da lì partivano tante idee per essere media, poi ognuno ha seguito strade differenti. Personalmente ho partecipato all'esperienza di Indie Media Italia e tornato a Roma, post Genova, sono entrato nel nuovo gruppo di Avanotti. E si facevano tante belle cose, eravamo in fermento con i nuovi media e le tecnologie che finalmente ci riprendevamo. Streaming dai cortei, ne strike, lotta contro il copyright, tante sinergie con Radio Onda Rossa e Radio Blackout, gli attacchi ai nostri media indipendenti e la nostra veloce reazione, eravamo sull'onda e ci piaceva molto. C'era un grande spirito di condivisione e molta curiosità. I tanti corsi che facevamo erano seguiti da così tanta gente che entravano in quello che adesso è l'auditorium Belforte. Alfabetizzazione digitale, usare Linux e il software open source, la crittografia che rimane il filo rosso di un percorso di coscienza sugli strumenti informatici. Io personalmente mi occupavo di grafica e con GIMP. Molte notti davanti agli schermi, tanto freddo e molto molto divertimento. Ci venne poi in mente di realizzare il Media Lab del Forte, che a fine lavori però utilizzammo veramente poco, eravamo in pieno di flusso, caro nostro e del movimento. Ritornato a Roma l'ennesima volta e al Forte con le Ciak ci siamo rimboccati le maniche e ripulito la vecchia Havana, buttato la montagna di hardware, una vera montagna che eravamo riusciti a ammucchiare in anni di raccolta, ma che ormai era obsoleto e o non funzionante. Regalato, utilizzabile e con pazienza, dopo un po' è ripartita la nuova generazione di smanettoni, in cui sinceramente faccio poco o nulla, volando in altri spazi siderali. Ecco, in pillole, questa è stata Havana per me, una bella esperienza. A presto.